appunto a Franco. Ha dato 4 appuntamenti e non ha rispettato manco uno, Maria. Ah, così è. Maria, buonasera comunque. Maria qua. L'ultimo bicchiere mi ha fregato. Ah, così è, fra. È una cosa incredibile. È colpa di Claudio, Sempre colpa di Claudio. No. Non è con me oggi, no. C'è una doccia, dai, vi saluto, ciao Maria, ciao Cla, ci facciamo dopo Cla, dai, non problema, capa, salta di Dio. Dai, fatta una bella doccia, vai, la rinfresca, ti già sentiamo stasera, ciao. Ciao Claudia, ciao. Ciao Maria, buonasera a tutti, ecco, RT, sono sotto doccia, acqua fredda, ciao. Ciao Fra. Dove sei Maria? A Dico. Dico. Il Dico. Ma il Dico non è quello degli orecchioni? No, dico no, ex Melunga, dove lavoravo io. Ah, lì lavoravi tu? No, ho detto che c'è quell'affare dei Dico, no? Non è quell'affare dei cosi, degli omosessuali. Ah, voi, non so. mi pare sia così, Non me ne ha contenuta, ma comunque mi pare sia così, da. Non lo so. Vabbè, sono arrivata, bianco per me. Facci sapere se hai preso tutto, capito? Così organizziamo l'arrembaggio. Eia, ok, io ti faccio sapere. Vabbè, già sono qua in ascolto, dai, sto facendo così. E salutiamo a Luigi. Stazione Vernaccia. Stazione Vernaccia? E voi non possiamo nascosti dalla macchina, cazzo. Claudio? Dimmi. Guarda come vai sta radio. Un barattolo. Un barattolo? Di Pelatti. Sarora, pensavo migliore, cazzo, però è proprio Pelatti. Ma te l'ho detto. Io quando sto su una cosa dico sempre la stessa cosa. È un barattolo sta radio, Daniele. È così? Così hai leggermente una tonalità più acuta, però siamo sempre lì. Ma non è satura, no? No. Va bene, quindi. Va bene, diciamo che va bene. A te bene va. Boh, io non mi sento, non mi ascolto e quindi non lo so dove è, com'è. Dillo a Franco, già la conosce, se va bene a lui. Va bene, dai, sentiamo dopo. Fate, sto facendo cosa io qua. Ehi, ciaccia. So che nuda, da cacciare tutto così, Daniele. So che nuda, Cos'è? Ma so che nuda. Non ho capito niente, no. Cazzo vai, la bocca liata vai, boh, io so che ne andrei, vai, se la gente non vi gubbiò. Oh Cla, quella radio lì, per quel canto non va bene a tirarla. È tutta a manettone il trimmer del modulatore, quindi è problema del radio. Io gliel'ho aumentata, però non lo so, se va male, so cazzo sua. Vabbè, tutti dini, dai, ci sentiamo dopo, ciao. Ecco Giariello! Giariello sta leggendo il manuale delle istruzioni. Ciao, salutami, ciao Gigino! Ah, stavo qua facendo cosa, dai, sto leggendo le istruzioni, se no non riesco a accendere neanche appena dopo. E ti vende la fresca però lui, No, io non ho bevuto niente, la verità, non ho toccato nulla lui, guarda, sono a posto, tranquillo. Sembro, guarda, Gesù Cristo. Cosa hai detto? Però non ho bevuto nulla, ho bevuto acqua del rubinetto. Già si sente, già si sente. Pappa, aspetta che sto facendo una saldatura e poi ti richiamo. Mi sono ripreso adesso, sono lavato la faccia, anche i capelli mi sono bagnato, mi sembro Letizia. Ha chiamato Nanni, se volevi salire oggi o stasera c'era la festa.